E rieccoci, adesso passiamo a un altro artista, John Lennon, con la Plastic Ono Band, una band nata quasi alla fine del, diciamo, il suo progetto con i Beatles, e questa canzone Mother, che lui dedica appunto alla madre che è deceduta proprio ai suoi primi anni di età. Una canzone molto bella, soprattutto verso la fine, quando quasi c'è un acuto un po' tra virgolette di dolore. L'andiamo ad ascoltare e poi subito parliamo con una testimonianza diretta di una giovane madre appunto che si è trovata con alcuni problemi sul lavoro. Ora parte comunque John Lennon, Plastic Ono Band, Mother. Allora, rieccoci in diretta sempre da Mamma Trona, Radio Onda Rossa, e con noi c'è una giovane mamma, come dicevamo, che ovviamente, anzi ovviamente, ha scelto appunto la maternità, però al lavoro le hanno creato dei problemi subito dopo. Quindi capiamo bene la situazione, magari se ti va di raccontarcela e poi capiamo nel dettaglio un po'. Una situazione ovviamente che non è singola e non succede solamente a una persona, quindi è una condizione che più o meno ci viviamo tutte quante sulla nostra pelle. Sì, salve. Beh, innanzitutto io devo dire che faccio un tipo di lavoro magari particolare per gli orari, ecco, perché facendo l'infermiera ho degli orari, diciamo, anche notturni o il pomeriggio tardi, che magari non capita a tutte le mamme, ecco. E i problemi ci sono stati sia da quando sono rimasta incinta, perché comunque sì, ho un mese di maternità in più per il tipo di lavoro che faccio, ma io devo lavorare come tutti quanti in una specialità che comunque è abbastanza critica per poterlo fare, insomma, da crescendo un bambino dentro di sé. Poi vabbè, fatto, diciamo, questo il periodo della maternità, superato questo periodo, il problema è nato nel momento in cui ho portato al lavoro il certificato che mio figlio era nato, perché da lì sono cominciati, come tutti quanti, i 3 mesi di aspettativa. Finiti quelli, io il 3 luglio dovrei rientrare al lavoro in un periodo in cui, diciamo, gli asili nido praticamente chiudono, e sì, la domanda la dovevo fare ancora prima che il bambino nascesse. A parte queste cose organizzative che comunque avevo previsto, il discorso è che comunque devo fare un orario che non mi permette di stare accanto a mio figlio, nel senso dalle 14 alle 22 è un orario in cui tuo figlio non lo vedi. E a parte quello, il nido aziendale non ha posti e comunque stacca alle 16, cioè chiude alle 16. E se tu sei una persona che o sei una ragazza madre, oppure il tuo compagno lavora di più di te in orari in cui comunque non può andarlo a prendere, oppure non hai le famose nonne che mandano avanti i bambini in Italia, ti ritrovi non sapendo a chi lasciarlo, o a pagare una babysitter che ti costa quanto guadagni praticamente. Anche perché poi il problema maggiore è anche quello degli asili, appunto, che chiudono alle 4:30. Sì. Quindi bisognerebbe capire, sì, sì, anche una madre, cioè una donna, fino a che ora deve lavorare. E se te lo prendono poi. Sì. E poi un altro problema è ovviamente al lavoro, nel senso, se quali sono state poi le proposte che ti sono state fatte dopo, appunto, per ricominciare a lavorare, cosa ti hanno proposto, no? Di andare ogni giorno in un reparto diverso, perché io, essendo madre e potendo dare potenzialmente una malattia a bambino per problemi con mio figlio di qualunque genere, e di andare ogni giorno in un reparto diverso a tappare i buchi degli altri, quindi lavorando ogni giorno in un posto diverso, con persone diverse, in specialità completamente diverse, perché tu adesso sei madre e se no ci dai problemi. Quindi questa è un po', insomma, la tua storia, più che altro racconta quello che sta avvenendo, insomma, in questi giorni, e soprattutto ci racconta quello che è, appunto, cosa significa una scelta del genere, ovvero quella di fare un figlio, quello che ti mettono davanti dal punto di vista lavorativo, vedendoti sempre in maniera secondaria rispetto a un lavoratore maschile, visto che nel tuo caso non ti hanno fatto firmare le dimissioni in bianco, ma questo avviene nella maggior parte dei casi. E comunque, se non te le fanno firmare, poi ti creano un problema, ovvero ti fanno del vero e proprio mobbing per farti andare via. E quindi vedi bene che troviamo, no, come al solito, una situazione di svantaggio rispetto agli uomini dal punto di vista lavorativo. Dopodiché poi c'è tutto il lavoro, no, non retribuito, che vede, no, nel senso, sempre le donne in primo piano, che è quello dell'accudimento dei bambini, o se no degli anziani, un altro caso, o comunque, come dicevi tu prima, io non ho una nonna che li, esatto, può tenere, no, nel senso, questo sta succedendo, ovvero quello in cui il momento in cui ovviamente una donna lavora fino alle 6, alle 7 del pomeriggio, le 8 e gli asili chiudono alle 4:30, se non hai una nonna che può appunto andare a prendere il bambino, pure lì trovi un bel problema da risolvere. E questo, appunto, oggi ci va, insomma, in questa puntata di Mamma Drona, in cui parliamo di maternità, di madri, a parlare anche di questo problema, che è un problema reale, che, non, come ho detto prima, non prende una donna solamente, non è un caso singolo, ma prende la maggior parte, insomma, delle donne, ed è una questione, appunto, su cui bisogna riflettere, bisogna trovare delle soluzioni che sicuramente il mancato welfare di questo paese non ci permette di risolvere. E quindi diciamo che ti ringraziamo, insomma, per questa testimonianza che sicuramente ci fa capire poi nella realtà dove vanno a parare determinati tipi di politiche. E continuiamo con la musica, con Mother People, The Mothers of Invention. Take a minute and tell you my plan. Let me take a minute and tell who I am. If it doesn't show, then you better know I'm another person. Do you think that my pants are too tight? Do you think that I'm creepy? Let me take a minute and tell you my plan. Let me take a minute and tell who I am. If it doesn't show, then you better know I'm another person. We are the other people. We are the other people. We are the other people. The other people too. Found a way to get to you. We are the other people. We are the other people. We are the other people. You're the other people too. Found a way to get to you. E adesso, dopo aver sentito appunto Frank Zappa dalla raccolta The Mother of Invention, sentiamo Ivan Graziani con Oh Mamma Mia. Storiaccia, ma chi l'avrebbe detto di ritrovarmi con Antonia chiusi dentro un gabinetto. Antonia era alle prove, tutta compagnia teatrale, a recitare un pirandello metafisico informale. Allora andammo in osteria, un'osteria per camionisti, avere una bottiglia in pace senza essere visti. E al quarto quinto bicchiere di Barolo controllato, Antonia cavallò le gambe in un modo esagerato. Mamma mia, che spogna, Antonia, Antonia, Antonia, sul cappello, giù il cappello per moliere il pirandello. È un energumeno peloso che aveva appena scaricato il fieno, fece pesanti apprezzamenti su Antonia e sul suo seno. Poi si alzò di scatto, che quasi ci venne addosso, te tiro un po' in due, mi disse la tua donna me la porto via. Ma ecco all'improvviso, in mezzo ai lampi e ai tuoni, apparve il nostro amico Gianni con il suo ciuffo di Steltoni. E volarono cazzotti e colpi bassi fra le gambe, finché si ritrovarono quasi tutte e due in mutande. Oh mamma mia, oh mamma mia, oh mamma mia, oh mamma mia, oh mamma mia. Oh sì, Antonia, Antonia, Antonia, Madonna di Moliere e Pirandello. Sulle gambe e che in un modo informale voleva anche lei mettersi in mutande. Oh mamma mia, oh mamma mia, mamma mia. E chiusi a chiave nel gabinetto, seduti sul cappello, Antonia mi parlava di teatro di Pirandello. Oh mamma mia, oh mamma mia, oh mamma mia, oh mamma mia, oh mamma mia. Antonia, Antonia, Antonia, Madonna ti ricordi che sbornia. Tonia, Antonia, Antonia, su il cappello, giù i. Tonia, Antonia, Antonia, Madonna ti ricordi che sbornia. Tonia, Antonia, Antonia, sul cappello, giù il cappello per Moliere e Pirandello. Allora Antonia, Antonia, Antonia, Madonna ti ricordi che sbornia. Tonia, Antonia, Antonia, sul cappello, giù il cappello per Moliere e Pirandello. Allora, come qua si parla, insomma, di andare a parlare con una mamma di quello che si è fatto, cioè no, più che parlare con una mamma, insomma, ci si appella, oh mamma mia, oh mamma mia. Passiamo a Etta James con Tell Mama, che appunto è una canzone molto simpatica, perché praticamente dice, vabbè sì, sono una ragazzaccia praticamente, però te l'avevo detto, se devi andare a piangere vai da tua mamma. La canzone è la stessa, ma cambiamo voce e arrangiamento. Questa è Janis Joplin, sempre Tell Mama. Oh, yeah!

adesso invece parliamo delle Madri de Plaza de Mayo. Le Madri de Plaza de Mayo sono conosciute perché durante la dittatura argentina iniziata nel 1977 iniziarono appunto a vedersi a Plaza de Mayo e organizzare appunto questa sorta di protesta che poi si trasforma in una vera e propria resistenza, poiché ogni giovedì pomeriggio si recavano appunto nella piazza e con alcune invenzioni simboliche, ad esempio quella del fazzoletto bianco sul capo, e cercavano insomma di, per prima cosa, quello che ho detto prima, ovvero quello di resistere a quello che era un regime autoritario come quello argentino, e dall'altra parte richiedevano appunto i loro figli scomparsi, che appunto i desaparecidos argentini. Quello che appunto sono diventate famose anche perché alcune di loro sono sparite, e anche la forza di questa organizzazione di opposizione completa a quella che è la dittatura. Si riunivano appunto e, in quanto madri, in quanto appunto rivolevano i loro figli. E, importante anche nel 1978 una seconda organizzazione, che è quella invece delle Abuelas de Plaza de Mayo, quella delle nonne, che in realtà riceve delle critiche da parte dell'organizzazione delle Madri di Plaza de Mayo, perché e loro in realtà avranno un legame con le istituzioni, mentre invece le Madri di Plaza de Mayo no. Però diciamo quello che cercavano le nonne non era solamente ritrovare i propri figli, ma era anche di cercare le proprie nuore o figlie, o i figli insomma delle proprie nuore incinte, e questo fa capire un po' quello che è successo in quegli anni, e che e la forza insomma di questo movimento, che non è stato solamente non c'è stato solamente in Argentina. Ad esempio c'è il movimento in Salvador delle Comadres, nato sempre nel 1977, e che vedeva appunto l'organizzazione non solo appunto di madri, ma anche di lavoratrici, e anche che andavano appunto contro quello che era l'orrore appunto della guerra civile. Nel 1990 invece si avrà in Colombia uno stesso gruppo di madri, e appunto quello che succede è cercare di portare dal punto di vista politico quello che è il soggetto di madre, ovvero rivendicarsi appunto la propria soggettività, e non solo dal punto appunto come una questione privata, ma scendere in piazza e prendere una voce pubblica rispetto a quello che stava succedendo, alla violenza appunto dello Stato. Adesso ci ascoltiamo una canzone di Kenny Arcana che riprende un po' il tema delle Madri de Plaza de Mayo, La Mère des Enfants Perdus. Qui accueille les moments mal d'amour qui se perdent bien souvent dans ma gueule. Ceux qui demeurent sans repère, cause de famille détruite, ils me prennent comme mère pour avoir des frères. Je deviens celle avec qui ils passent le plus de temps, et ils sont fiers d'être de mes enfants. Ils portent mes couleurs dorénavant, ils doivent prouver qu'ils sont dignes de mon rang. Me prouver à moi en prouvant à leurs frères qu'ils en ont dans le froc, en provoquant l'enfer, qu'ils puissent étoffer leur palmarès pour alimenter le pacte jusqu'à ce qu'ils se perdent dans leur prouesse. Leur inculquer qu'il y a ni bien ni mal, juste des faibles et des forts à l'instinct animal. Parce que dans mes artères coule la jungle, c'est chacun pour soi et tout sur celui qui va gêner. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. Viens. Tu m'as choisi comme mère quand tu es en vadrouille. Reste avec moi, quitte les bancs scolaires, j'apprendrai la débrouille. Tu n'as pas de place dans leur monde, mais ici je t'en donne une. À toi de la garder du ciment, tu peux faire fortune. Conduis-toi comme un roi, le reste viendra, je suis avec toi. Mais faut honorer le pas, te souviens-toi. Je t'enseignerai l'agilité pour dompter la chance. J'ai composé la chanson, celle où le diable mène la danse. Leur orphelin, je t'offrirai des sensations, des jerrycans d'adrénaline pour assouvir tes tentations. Tes parents vont me maudire, alors sans une excuse pour moi, tu vas les faire souffrir. Je serai la cause de vos disputes, moi. T'accueille à bras ouverts si tu prends la porte. Viens, je t'offrirai de l'argent à te faire et plein de potes qui seront tes compagnons, tes frères, car mes fils aveuglés, c'est à cœur joie que vous sombrerez dans mes vies. Je suis la rue,

Ed ora passiamo a Long Tall Mama di Glenn Miller. Ed ora proseguiamo con un quartetto, il primo quartetto vocale dell'era rock and roll, il primo quartetto vocale femminile, scusate, dell'era rock and roll, che nasce nel 1958, le Shirley's con Mama Said. The day, and everything was going fine. E ora Harry Belafonte, Mama Look a Boo Boo. I wonder why nobody don't like me, or is it a fact that I'm ugly? I wonder why nobody don't like me, or is it a fact that I'm ugly? I leave my whole house and go, my children don't want me no more. Bad talk inside the house they bring, and when I talk they start to sing. Mama look up, boo boo, they shout, their mother tell them, shut up your mouth, that is your daddy. Oh no, my daddy can't be ugly, so shut your mouth, go away. Mama look a boo boo day, shut your mouth, go away. Mama look a boo boo day. I couldn't even digest me supper due to the children's behavior. John, yes, Pa, come here a moment. Bring the belt, you much too impudent. John says it's James who started first. James tells the story in reverse. I dragged me belt from off me waist. You should hear them screaming round the place. Mama, look up, boo boo, they shout. Their mother tell them, shut up your mouth, that is your daddy. Oh no, my daddy can't be ugly, so shut your mouth, go away. Mama look a boo boo day, shut your mouth, go away. Mama look a boo boo day. I got carried away. So I began to question the mother. These children ain't got no behavior. So I began to question the mother. These children ain't got no behavior. They're playing with you, my wife. Come here, non ricordare le mandi per una città aperta, che ha un connotato che si è fermato intorno a Stefania Zucca, e che salutiamo la mamma di Renato Biaggetti, che è stato accoltellato nel 2006 a Focene alla fine. Eccoci, scusate, come non ricordare il comitato delle madri per Roma città aperta, che si è formato intorno a Stefania Zuccheri, la mamma di Renato Biaggetti, che è stato ucciso, assassinato a coltellate nel 2006 uscendo da un concerto di musica rag a Focene per la mano di due giovani aggressori che sono animati da una sottocultura di violenza e di intolleranza. Questo comitato appunto si è formato perché Stefania diciamo vuole, insieme alle donne che fanno parte di questo comitato, vogliono appunto lottare contro l'ideologia neofascista e neonazista che continua ad esistere in questo paese, in questa città. E la loro parola d'ordine è ritornare alla vita, ma ritornare alla vita rigenerando i sogni dei propri figli che sono stati spezzati dalle lame o dai contratti non rinnovati, da spazi e case negate, e quindi hanno questa idea della maternità che deve essere vissuta come una forza generatrice che permeata di impegno e di azioni, e il loro obiettivo è quello di costruire una società tollerante e rispettosa della vita altrui e che si arricchisce grazie alle diversità di ognuno e di ognuna. Quindi ringraziamo quello che fanno tutti i giorni le madri per Roma Città Aperta, e adesso ci sentiamo Johnny Cash, Send a Picture of a Mother. Of Mother. I'll miss you more than a brother when you go, when you go. If only I had not tried to escape, they'd pardon me with you, I know, yes I know. Won't you tell the folks back home I'll soon be coming, and don't let them know I never will be free, be free. Sometimes write and tell me how they're doing, and send a picture of mother back to me. Say hello to dad and shake his poor hard-working hand, and send a picture of mother if you can. I'm happy for you that you got your freedom, but stay with me just another minute or so, or so. After all this sweat and blood together, who'll be my fighting partner when you go, when you go? The hardest time will be on Sunday morning. Church bells will ring on Heaven Hill, Heaven Hill. Please ask Reverend Garrett to pray for me, and send a picture of mother if you will. Say hello to dad and shake his poor hard-working hand, and send a picture of mother. E adesso, prima di sentire Fabrizio De André con Tre Madri, una delle canzoni tratte dall'album La Buona Novella, volevo parlare di quella che è stata nella spiritualità, diciamo, medievale, la concezione di Trinità femminile, che comunque era composta da Anna e da Maria, e che era uno degli elementi, diciamo, un po' devianti, diciamo, dalla spiritualità ecclesiastica, gerarchica, e che mirava appunto a dare un volto maschile alla Chiesa. Quindi queste sono questo tipo di spiritualità, che non era presente solo appunto in una Trinità femminile, ma era presente anche nell'elemento, ad esempio, della Trinità che vedeva il padre e il figlio non accanto allo Spirito Santo, ma accanto a un'altra donna, Maria, che sono state poi in realtà uccise e comunque represse duramente durante i secoli dalla gerarchia ecclesiastica, che appunto non voleva che ci fosse questo tipo di richiamo, anche in parte pagano, a un elemento femminile e materno nella religione delle donne. Quindi adesso sentiamo Fabrizio De André, Tre Madri, che appunto riprende quelli che sono i Vangeli gnostici e che quindi non sono riconosciuti dalla Chiesa. Dirti addio, Dimaco ignori chi fu tuo padre, ma più di te muore tua madre. Con troppe lacrime piangi Maria, solo l'immagine d'un'agonia. Sai che alla vita nel terzo giorno il figlio tuo farà ritorno. Lascia noi piangere un po' più forte chi non risorgerà più dalla morte. di lui ciò che mi è tolto, le braccia magre, la fronte, il volto, ogni sua vita che vive ancora, che vedo spegnersi ora per ora. Figlio nel sangue, figlio nel cuore, e chi ti chiama nostro Signore, nella fatica del tuo sorriso cerca un ritaglio di paradiso. Per me sei figlio, vita morente, ti porto cieco questo mio ventre, come nel grembo e adesso in croce, ti chiama amore questa mia voce. Non fossi stato figlio di Dio, t'avrei ancora per figlio mio. Rieccoci, sempre qui a Mamma Trona, volge quasi al termine, anzi stiamo quasi finendo in questo 2 giugno di vacanza, tra virgolette, ma noi siamo sempre qua, malgrado la nottata bianca, a martellarvi, ecco, sì, con questa positività. Allora, insomma, una puntata bella, piena di contenuti, e quindi rimandiamo l'appuntamento a giovedì prossimo, sempre dalle 12 alle 13, e adesso vi lasciamo con gli ABBA, Mamma Mia, e un saluto collettivo. Ciao! Ciao! Ciao! Dormite se potete. Mamma Trona la dedica alle mamme delle mamme delle mamme e delle mamme delle mamme delle mamme.